allora buon pomeriggio a tutti e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, come ogni giovedì pomeriggio, questa è Attica Blues. Viaggia nell'etere come un'onda. Allora, reduci dalla puntata Trojan, io già anelo quella del mese prossimo, che sarà dedicato a Robert Nesta Marley. Il 6 quest'anno casca di lunedì, noi la faremo il 10, mi pare, giovedì casca di 10. Casca di 9, quindi un giorno prima, giovedì 9 febbraio. Vabbè, gli auguri non vanno fatti prima, ma dopo va più che bene. No, assolutamente, assolutamente. Invece cominciamo questa puntata dedicata alle grandi orchestre del passato come dei giorni nostri. C'è da dire che il lavoro d'orchestra rende una sfida in qualche modo per il compositore, che deve fare tutte quante le partiture per tutti gli strumenti, e comunque rispetto al quartetto, al quintetto, al terzetto c'è meno improvvisazione, bisogna stare più ligi a una struttura dei brani, insomma c'è uno sforzo compositivo non indifferente. Ed è proprio per questo che sono sempre stati grossi personaggi a dedicarsi alle orchestre, a mettere su insieme anche i tanti musicisti necessari a creare un'orchestra. Sto pensando a Duke Ellington, ma anche a Bill Evans, o insomma i vari che hanno composto le grandi orchestre del jazz, ma non solo. Orchestre che poi necessitavano anche di parecchi soldi, sia per portarle in giro che per portarle in sala d'incisione. Uno sforzo organizzativo non indifferente. Quando abbiamo parlato di Felaguti, proprio diciamo, loro si spostarono 60 persone. Vai a spostare 60 persone, casomai senza i cellulari, quindi 2-3 pullman, gente che si perde, va a raccattare. Quindi, insomma, uno sforzo organizzativo non indifferente, non solo per il compositore a questo punto, ma per tutta l'organizzazione, farli dormire, farli mangiare, insomma. Eh sì, infatti, diciamo che poi un'orchestra, il minimo di un'orchestra sono 10 elementi. E l'orchestra nel jazz, che ha avuto il periodo d'oro nel periodo swing, il golden swing, dagli anni 20 fino agli anni 40, in cui poi quasi tutte le orchestre si sciolsero proprio per motivi economici. L'unica che rimase in piedi fu quella di Duke Ellington, e poi dal bebop in poi invece hanno di nuovo trovato vita, affrontando il periodo afrocubano, ma anche il bebop, fino al free jazz e fino ai giorni d'oggi. E noi partiamo con la selezione proprio dagli anni 50, quindi lasciamo stare il periodo swing e partiamo proprio da un periodo post-bop, con lui che forse era il più celebre capo orchestra, ossia Duke Ellington, e questa, presa dal suo celeberrimo album Afrobossa, si intitola Purple Gazelle. Che poi diciamo che queste grandi orchestre avevano raggiunto un numero di musicisti paragonabile a quello delle orchestre di musica classica, delle grandi orchestre di musica classica, le orchestre sinfoniche. Una cosa che mi ha sempre colpito delle orchestre di musica classica è il posto dove stanno i musicisti, che si chiama Golfo Mistico, quanto c'è proprio un qualche cosa di magico che si crea, una fusione di musica che si viene a creare. Non so se nel jazz si usa la stessa terminologia, diciamo che è un po' una cosa legata anche alle scene, perché di solito si svolgono nei teatri. No, diciamo che nel jazz i locali in cui si suonava, le orchestre suonavano, per esempio ricordiamo il Cotton Club, in cui erano di casa Fletcher Anderson, lo stesso Duke Ellington, Cab Calloway, o il Savoy Ballroom, in cui le orchestre si sfidavano. Quella di Chick Webb era quella di casa, e poi anche Benny Goodman e Count Basie, insomma, furia di colpi di assoli, le orchestre si sfidavano, e poi c'era proprio il giudizio degli spettatori. E comunque poi io a Roma ho assistito a una cosa del genere con lo swing, due grandi orchestre di swing che si sono praticamente sfidate in una serata danzante in un grande capannone, che quindi suonavano un po' per uno col giudizio del pubblico, una cosa molto divertente tra l'altro. Esatto, adesso la moda lo swing che sta tornando in voga, e appunto poi c'erano le orchestre dei bianchi, fra cui Benny Goodman, Stan Keaton, Glenn Miller, e poi anche quelle di Kansas City, in cui il più grande protagonista è quella di Count Basie, caratterizzata appunto dall'immancabile chitarra. Qui ce l'ascoltiamo in una registrazione nel 1957, il brano si intitola The Kid from the Red Bank, che tra l'altro è un disco uscito già in guerra fredda, e infatti si chiama The Atomic Count Basie, ci sta un'esplosione atomica in copertina. È il classico fungo. Sì, il fungo nucleare, un giallo vivo, una cosa abbastanza così, diciamo, trash per essere degli anni 50. Però è un gran bel disco. Assolutamente, vai. che poi mi fa pensare pure ai film degli anni 50-60, che molto spesso erano, appunto, avevano come colonna sonora delle orchestre, erano i film con grosse produzioni musicali, film di Hollywood, quindi c'erano queste grandi orchestre che suonavano. Eh sì, l'ambiente è proprio questo, siamo appunto nei meravigliosi anni 50, è proprio dagli anni 50. Veramente quelli meravigliosi erano i 20, i meravigliosi anni 20. Dello swing. In generale, meravigliosi si usa per gli anni 20. I 50 erano un po' come gli 80 nostri, dimola tutta. Beh, però a giudicare dai dischi che sono usciti negli anni 50, sì, direi che sono ben diversi dagli anni 80. Assolutamente sì. E dagli anni 50. Non erano i Duran Duran, insomma. Assolutamente. E direi anche che dagli anni 50 molti solisti poi hanno cominciato a usufruire delle orchestre, fra i quali Dizzy Gillespie col suo periodo afrocubano, Charles Mingus, Gil Evans, John Coltrane, Mingus, lo stesso Ashi Shep nella nostra sigla, lui in quel disco è un disco orchestrale, poi è uscito negli anni 70. Beh, infatti una volta abbiamo letto che ci aveva chiesto un ascoltatore chi ci suonava, esatto, chi erano i cori, abbiamo letto che erano tipo 40 nomi tra musicisti, coristi. E quindi era una. Tutti si sono cimentati comunque almeno in un disco con la formazione allargata. E passiamo a quello che è un incontro storico, quello fra Miles Davis e l'orchestra di Gil Evans. Loro si erano conosciuti e incontrati già nel 48 per l'album Birth of the Cool, in cui appunto avevano battezzato il genere cool, e poi si sono rincontrati alla fine degli anni 50, nel 1958, e hanno dato vita a tre album: Miles Ahead, Porgy and Bess, con la rilettura appunto del capolavoro di Gershwin. E Sketches of Spain, tra l'altro. Gershwin, che tra l'altro era un grosso compositore proprio orchestrale, quindi si sono trovati tutte le partiture per tutti assolutamente, i vari strumenti. Assolutamente. E tra l'altro un progetto che è stato ripreso proprio in questo inverno dall'orchestra di Gil Evans e Paolo Fresu all'edizione invernale di Umbria Jazz, hanno proprio riproposto le partiture originali, e dal vivo è qualcosa di meraviglioso. E da quel disco Porgy and Bess noi ci estraiamo la traccia più famosa, quindi è Summertime. Beh, diciamo che fino adesso ci siamo ascoltati brani relativamente brevi, anzi i primi erano decisamente brevi, 2 minuti e mezzo, però ovviamente non era sempre così, anzi molto spesso le orchestre suonavano brani molto lunghi, come questo che andiamo ad ascoltarci. Sì, qui partiamo proprio, parliamo della Gil Evans Orchestra, e già da qua possiamo notare come comunque i costi delle orchestre sono tutte produzioni di grosse case discografiche, Columbia, e qui per esempio siamo alla Impulse, proprio l'inizio della Impulse, 1960, il produttore è ancora il primo, Creed Taylor, e qui Gil Evans è a capo della sua orchestra in questo disco che si chiama Out of the Cool, e quella che ci ascoltiamo è il brano d'apertura, La Nevada. Thank you. allora un saluto a Patti che finalmente riesce ad ascoltarci dal salotto di casa. Un saluto pure a Daddy Silvietto che è in ascolto in giro per la città col suo furgoncino. Bless up. Allora un saluto pure a Federico che ci scrive che c'è pure lui in ascolto. Diciamo che in questo brano si colgono di più le sfumature orchestrali, la possibilità di cominciare più lentamente, di far evolvere il brano, di far entrare i vari strumenti, di far fare i soli alternati ai vari strumenti, che era un po' la sfida compositiva ma anche la gioia compositiva, perché comunque i grandi compositori alla fine avevano pane per i loro denti. A spiccare qui, oltre i vari solisti, c'è anche una ritmica formata appunto dal piano di Gil Evans, ma anche il contrabbasso di Ron Carter e la batteria di Elvin Jones. Un'altra cosa che c'è di più nelle orchestre è proprio il dialogo tra i vari strumenti, che casomai nel terzetto o nel quartetto non c'è, ma l'alternanza di vari strumenti che si parlano e si rispondono a grande scala, quindi la tromba, il trombone, il pianoforte a secondo dei casi. E si sfidano anche, e comunque possiamo dire che tutti i grandi solisti poi uscivano dalle orchestre e avviavano una grande carriera solista. Ora passiamo a un altro, soprattutto anche arrangiatore, Jerry Mulligan, il più grande baritonista probabilmente della storia del jazz, ma appunto non sottovalutare questo suo aspetto di arrangiatore. Qui pure lui è alle prese con la sua orchestra, Millennium si chiama il disco, è uscito anche qui per la Columbia e il brano che ci ascoltiamo si intitola Motel. Thank you. Diciamo che questa nello specifico era un'orchestra particolarmente ricca, con una mega sezione fiati, si sentiva che attaccavano tutti all'unisono, incredibile. Sì, sì, e poi tra l'altro qui cool, cool proprio, e si respira proprio il cool di quegli anni. Che poi è un arduo lavoro anche per il direttore d'orchestra, che poi spesso è il compositore, comunque far rispettare le partiture a tutti quanti, far entrare tutti insieme, cioè ovviamente nella musica classica ci sta più una... come dire, sono più ligi al dovere, sono tutti musicisti più abituati a essere inquadrati, mentre invece nel jazz comunque bisognava lavorare di più per far sì che i musicisti suonassero tutti insieme in maniera impeccabile. Eh sì, anche nell'orchestra comunque l'improvvisazione è alla base di tutto, e belle dinamiche, bella potenza soprattutto dal vivo, e concerti che costano tanto, però delle... Io mi ricordo che vidi l'orchestra di Duke Ellington, costava 80 euro, perché comunque mettere in fila tutti questi musicisti, farli venire dall'America tutti rigorosamente in smoking, comunque era proprio stile, veramente una bella emozione. E poi c'è da dire che io non so quanto tempo fa l'hai vista, perché ormai i concerti negli spazi quelli normali 80 euro è quasi all'ordine del giorno, costano tutti cifre folli, è diventato impossibile accedere ai concerti anche medio. Beh, per il jazz comunque è un prezzo altissimo, 80 euro, mi ricordo che però ecco fece registrare il tutto esaurito, e quindi insomma era un'occasione, veramente un evento, e che non ha deluso. E passiamo adesso a Bill Evans, il grande pianista, qui con un'orchestra diretta da Klaus Ogerman, e questo è un brano registrato nell'estate del 1963, si chiama Hollywood ed è proprio fresco fresco di ristampa. Thank you. si sente che è ristampato questo disco, suona una verve diversa, va, in qualche modo. Grande delicatezza e grande stile per Bill Evans. E adesso torniamo a un'orchestra comandata dai fiati. Il capo orchestra è Don Ellis, già trombettista anche dell'orchestra di Gil Evans. E qui, in un bellissimo lavoro, Electric Buff, ci ascoltiamo il brano d'apertura, Indian Lady. È molto diversa questa composizione rispetto a quelle che abbiamo ascoltato fino adesso, decisamente meno composta, questo mi viene come aggettivo, e anche il tipo di suoni che si ascoltano è differente. Sì, ci sono già la presenza di strumenti elettrici, il synth, e siamo nel 1967, piena psichedelia quindi. E in un contesto simile non poteva mancare l'orchestra di San Ra, uno dei personaggi più eccentrici della storia del jazz. Lui diceva di essere venuto da Saturno, nelle interviste parlava solo in terza persona e si rifaceva sia alle origini, a Duke Ellington, intorno a un Basie, ma anche all'avanguardia e quindi al free jazz. E un'orchestra che è ancora in circolazione, messa su da Marshall Allen, che era il suo fido contralto, e che qui ci ascoltiamo in una registrazione effettuata presso il Teatro Orfeus di Atene il 27 febbraio 1984. Fate in a Pleasant Mood. Come dire, a proposito di Saturno, nella copertina di questo CD ci sta lui, tutta una copertina sul verde, tutta tagliata, che si vede una tunica con una grande collana fatta di 10.000 pezzi, tipo gli occupa quasi un pettorale, e su questa tunica ci sono tutti pianeti, lune, insomma veramente un personaggio fuori di capoccia. Eh sì, proprio come gli Art Ensemble of Chicago si rifacevano alla tradizione africana anche nel vestire. Lui e i suoi componenti si rifacevano invece all'antico Egitto, già dal nome San Ra, il dio del sole, e quindi un personaggio veramente sui generis. Lui tra l'altro che aveva affittato un locale, un intero palazzo a Manhattan, dove faceva vivere una sorta di comune tutta la sua orchestra, e lui che tra l'altro dall'inizio si autoproduceva i dischi per la Saturn, la sua casa discografica, e quindi già un innovatore è una persona, un musicista libero. Il CD si chiama proprio Un mondo eliocentrico. E allora anche per questo giovedì Attica Blues volge al termine il tempo di uno, massimo due brani, e adesso vediamo, ma insomma stiamo ascoltando brani un po' più lunghi ovviamente. E anche questo che segue non fa eccezione, parliamo finalmente anche di un'ensemble italiana. Loro sono l'Italian Stable Orchestra ed è una delle formazioni in giro più accreditate, è una formazione che raggruppa i migliori solisti del free jazz italiano come Giancarlo Schiaffini, Carlos Actordato, Eugenio Colombo, Gianluigi Trovesi, Pino Minafra, e insomma una veramente un incontro fra vari elementi di estremo valore. Quella che ci ascoltiamo è una registrazione catturata al Festival di Londra, al London Jazz Festival, il 12 novembre del 2005, e il brano si chiama Vanu Vathema. We'll be right back. tanti musicisti, un po' come la fanfara, no? La banda di paese. Paolo Damiani, Pino Minafra, Alberto Mandarini, Guido Mazzon, Martin Mays, Lauro Rossi, Beppe Caruso, Giovanni Maier, Giancarlo Schiaffini, Emanuele Parini, Eugenio Colombo, Gianluigi Trovese, Daniele Cavalanti, Carlo Attistato, Fiorenzo Sordini, Italian Instabile Orchestra, grazie! Not forgetting, of course, Matthew Bourne. Diciamo che ci rimane il tempo per un'ultima traccia. Era doveroso sentire la presentazione di tutti, perché è veramente una bellissima formazione. Con violino, tra l'altro, sì, ci stava, vari strumenti. Stupendo, in Italia di Stable Orchestra. E chiudiamo con un disco del 1960, lui è Charles Mingus, che comunque era un fautore delle formazioni allargate. Qui invece è anche quasi orchestrale, in quanto ci sono Brock Raven al sax tenore, Benny Golson al sax tenore, Don Ellis alla tromba, e Danny Richmond alla batteria, Charles Mingus qui sono al contrabbasso ovviamente, e sax baritono, sax tenore, insomma ci sono vari elementi di un disco, un bel disco, si chiama Mingus Dynasty, che poi è anche il nome di una formazione che tuttora gira e porta appunto la musica dal vivo di Charles Mingus. Quella che ci sentiamo è Slop. Charles Mingus, che negli anni poi sarà uno dei grandi protagonisti del Montreux Jazz Festival, a cui dedicheremo la puntata di giovedì prossimo. Tra l'altro un altro personaggio abbastanza eccentrico, anche questa di copertina non gli si può di niente, diciamo. Ah, c'è lui con un mega cappello tutto ricamato, con un dragone dietro, un dragone cinese, con una specie di cosa di seta cinese, con tutto, sì, il richiama la Cina, richiama, sì. E allora ci sentiamo giovedì prossimo.